Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona giornata, buona domenica da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Temi della salute e della prevenzione con il punto sulla ricerca contro il cancro in primo piano in questa edizione, nella quale ci occuperemo anche di turismo con uno sguardo a Grado e agli appuntamenti popolari. Ampio spazio naturalmente allo sport e all'agenda di spettacoli e cultura. Salute e prevenzione in primo piano. Nella giornata della festa della mamma tornano le azalee della ricerca che in centinaia di piazze italiane contribuiscono alla raccolta di fondi per l'AIRC. La lotta contro i tumori non si concede pause. Abbiamo fatto il punto ad Aviano. È un gruppo di ricerca giovane quasi tutto al femminile, quello che al CRO di Aviano si occupa di studiare i tumori dell'ovaio e della mammella, un gruppo che riceve finanziamenti anche da AIRC, la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che in occasione della festa della mamma distribuisce su molte piazze e in rete la Zalea della Ricerca. Con un contributo di almeno 18 euro si potrà sostenere l'attività di una biologa come Ilenia Pellarin. Uno degli aspetti principali del tumore ovarico che in prima istanza risponde bene alla terapia, soprattutto a composti del platino, ma poi uno dei fenomeni principali è lo sviluppo della resistenza alla terapia. Quindi il nostro obiettivo principale, quello anche del mio progetto, è di cercare quei meccanismi per cui posso contrastare questa resistenza. Francesca Russo Valentina è appena tornata dalla Francia, proprio grazie a un finanziamento AIRC. Quella della ricercatrice può essere una vita fatta di sacrifici, specie nei primi tempi. Viviamo insomma con borse di studio per molti anni, quindi anche competitive come quella dell'AIRC, quindi pensavo fosse un po' difficile, ma in realtà è andata bene. A dirigere l'unità di oncologia molecolare del CRO c'è Gustavo Baldassarre, un lavoro paziente quello che coordina con il passaggio dal laboratorio alla sperimentazione sui topi. Uno studio può durare anni prima della pubblicazione su una rivista scientifica. Avere un grant di AIRC non solo rappresenta un valore aggiunto come finanziamento economico, ma anche il riconoscimento che il lavoro che hai fatto negli anni precedenti è un lavoro di alta qualità. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica big in regione per la campagna elettorale. A Udine per la Lega arriva il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, che sarà alle 18 all'Hotel Astoria per presentare il suo libro Controvento, l'Italia che non si arrende. Alle 18.30 sarà a Udine anche il presidente della regione Emilia-Romagna e del PD Stefano Bonaccini al Parco Brun dopo le tappe a Pordenone, Roveredo e Porcia. Prove d'estate sulle principali spiagge della regione, molti turisti austriaci e tedeschi, qualche rallentamento in autostrada nel traffico verso nord, di rientro dunque fra Gonars e il nodo di Palmanova. A Lignano già il pienone con la manifestazione motociclistica internazionale, mentre a Grado sono in tanti quelli che scelgono andature lente. Siamo un gruppo di camminatori della provincia di Bergamo, siamo partiti lunedì dal confine della Slovenia, stiamo camminando sulla via Flavia, sicché tra poco arriveremo alla nostra meta che è Aquileia. Camminatori, cicloturisti e ovviamente bagnanti, Grado comincia a gonfiare i suoi polmoni turistici. Sentiamo Ilaria Angela Dovier, imprenditrice turistico-balneare. Il sole è arrivato nel momento giusto, con l'arrivo degli austriaci, che saranno presenti anche il prossimo weekend della Pentecoste. Le nostre spiagge hanno avuto il rimpascimento. Per quanto riguarda il granchio blu, non rappresenta assolutamente alcun problema, in quanto il granchio ricerca cibo e è più interessato alle zone di pesca. Tra gli arenili gradesi esce vincente la Costa Azzurra, che è già pronta, mentre la spiaggia principale ha completato il ripascimento ma sta ancora lavorando agli allestimenti. Un rebus invece a Grado Pineta, dove i concessionari, penalizzati dai ritardi nel trasporto della sabbia, hanno deciso di piantare gli ombrelloni nonostante sia ancora vigente l'interdizione per lavori. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Diversi oggi in regione gli appuntamenti popolari. A Pordenone è in corso la 27esima edizione di Naoniscon Games and Comics, manifestazione sulle culture ludiche del Triveneto. Alla fiera di Pordenone per tutta la giornata oltre 200 espositori e il Naoni Talk con 12 approfondimenti. E poi Vinil Udine, mostra mercato del vinile e CD usato nella palestra Don Bosco dell'Istituto Bearzi fino alle 19, quasi 40 espositori e la possibilità di scambiare i propri pezzi da collezione. E ora uno sguardo al tempo, cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi, a Gorizia 24 gradi, a Pordenone e Udine 23, a Tolmezzo 20 gradi e mezzo, a Tarvisio 19, a Forni di Sopra 18, a Sappada 15 gradi e mezzo, a Piancavallo 13 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 9 gradi, sul Monte Lussari 8, a Lignano 22 gradi, a Grado 21 gradi. Previsioni a cura dell'ARPA nel pomeriggio sulla zona montana, probabili deboli piogge sparse o locali rovesci, specie su Alpi e Prealpi Carniche. Domani cielo da nuvoloso a coperto. Sulla zona montana piogge da deboli a moderate, con la possibilità anche di rovesci. Su pianura e costa piogge sparse, deboli o molto deboli, a carattere sparso e intermittente, più probabili nelle ore centrali. A Udine un'intensa giornata di incontri chiude la 20ª edizione di Vicino Lontano. Questa mattina all'oratorio nella chiesa di San Francesco è stato affrontato il tema della riduzione del divario tra nord e sud del mondo. Tra gli incontri del pomeriggio, sempre a San Francesco alle 17, il politologo Manlio Graziano, l'antropologa brasiliana Paola Montero, l'economista Jean-Léonard Touadi e il sinologo Maurizio Scarpari parleranno di crisi delle civiltà e disordine del mondo. E stasera il giornalista Fabrizio Gatti, già vincitore del premio Terzani, sarà protagonista del racconto reading dal titolo Chi abiterà l'Italia dopo di noi? Prosegue l'11ª settimana della cultura friulana promossa dalla Società Filologica Friulana. Fra gli appuntamenti di oggi alle 17 tra il Borgo e la Chiesa di Casso, Il mio canto e memoria, la musica di tradizione orale. A Fagagna, La Rosade, l'art di lutte nel Friuli del giovane Pasolini, proiezione e visita guidata alle 18 nel Museo della Vita Contadina. Gli spettacoli tutto esaurito al Teatro Nuovo di Udine per il concerto dei 40 Fingers, quartetto di chitarristi alla tappa conclusiva di un lungo tour partito dagli Stati Uniti. I 40 Fingers torneranno in regione il 29 giugno al Castello di San Giusto. Musica tradizionale protagonista Prato di Resia con il concerto Canto delle Isole Remote. Alle 17 alla Casa della Cultura Resiana si esibiranno Francesco Benozzo, arpista e poeta, e il polistrumentista Fabio Bonvicini. A seguire sul palco il gruppo folcloristico Val Resia. A Trieste alle 17.30 in Sala Luttazzi va in scena Bacco e Venere, però Brindo alla Vita, spettacolo teatral musicale dedicato al vino. Ideato e scritto da Michela Vitali, lo propone l'Associazione Internazionale dell'Operetta. E a Cividale per il Festival Udine Castello alle 16 nella Chiesa di San Pietro suonerà l'ensemble di flauti Le Agane con Luisa Sello. Anatema porta a Citafiera lo spettacolo di teatro itinerante La Fiera delle Favole, l'inizio alle 17. La Giunta Comunale di Udine ha approvato un documento di fattibilità economica che avvia la progettazione per l'ampliamento e la riqualificazione dell'impianto sportivo dedicato al rugby in viale 25 aprile. Il quadro complessivo dell'opera sfiora i 600.000 euro e il Comune di Udine ne coprirà un quinto. Nel contesto dell'impianto sarà costruito un edificio nuovo che diventerà una palestra da 90 metri quadri. L'amministrazione comunale intende inoltre inserire nella progettazione anche la realizzazione di una struttura da trasformare nella nuova clubhouse aperta ai tesserati, al pubblico e ai genitori. E ora lo sport, il calcio. In Serie A il Lecce è matematicamente già salvo dopo la sconfitta del Cagliari ieri sera 5-1 contro il Milan. Meno pressioni dunque per i salentini nella partita di domani con l'Udinese, che invece ha bisogno di fare punti. Intanto nei play-off di Serie C la Triestina ha pescato il Benevento nel sorteggio di questa mattina. Gli avversari sono testa di serie e stavolta saranno loro ad avere a disposizione due risultati su tre nell'arco delle due partite. La prima martedì al Rocco, dove ieri sera gli alabardati hanno eliminato con fatica e brividi finali la Gian Erminio. Brividi VAR per la Triestina in una serata che ha fatto sudare fino all'ultimo a squadra e tifosi il passaggio ai play-off nazionali. Contro la Gian Erminio il grosso succede nell'ultima parte di gara. A 9 minuti dal termine l'arbitro fischia un offside dopo un atterramento di Maguette Fall, richiamato però dal VAR dopo una lunga revisione, concede il calcio di rigore agli ospiti e lo stesso Fall gela il Rocco spiazzando Agostino. Fin lì gara in equilibrio, con occasioni soprattutto per la Triestina che, ferita, reagisce subito, va avanti e dopo 3 minuti pareggia grazie al colpo di testa di Capitan Malomo su corner di Vallocchia. L'1-1 basta per passare il turno, sembra finita e invece no. In pieno recupero, l'ultima mischia furibonda in area alabardata, una conclusione sporca di Verde, bacia il palo e sta per entrare in porta quando viene spinta fuori dal balzo felino di Agostino. Gol, non gol, decide il VAR, la palla è ancora sulla riga, la Triestina è salva. Ora testa al Benevento, sfida difficile da ipotecare già all'andata martedì al Rocco, il ritorno sabato prossimo. Non bisogna finire pari, il Benevento è testa di serie e in caso di parità passa il turno. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel basket questa sera Cividale la Gesteco prova a portare alla quinta partita il confronto con Cantù. In palio c'è la semifinale con l'APU già qualificata dopo il successo di ieri sera a Cremona. Anche Udine dopo Trieste è già in semifinale, cappotto a Cremona 3-0, serie chiusa pur senza Clark contro una squadra che senza le percentuali irripetibili di gara 2 non riesce a resistere nemmeno 10 minuti. E infatti dopo il 60% del secondo episodio al Carnera la squadra di Becchi comincia con 1 su 13 da lontano e la strada è segnata. La scarsa mira dei padroni di casa davanti a pochi intimi è anche merito della difesa della squadra di Vertemati che concede meno spazio. In attacco basta la prima folata targata Gaspardo e Monaldi per viaggiare subito con il pilota automatico in una partita che ha davvero poco da dire e con il risultato praticamente mai in discussione. 52-73, 21 per l'ala e il lusso per il coach bianconero di far rifiatare Cannon in attesa del ritorno di Clark. Domenica prossima l'APU troverà la vincente di Cantù Cividale. Per la riedizione del derby serve un miracolo, ma in terra longobarda sono attrezzati. Stasera alle 18 la squadra di Pilastrini va a caccia del pari nella serie davanti alla Marea Gialla. Già in semifinale invece Trieste che attende presumibilmente Forlì alle prese con la rognosa Vigevano in gara 4. Nel femminile invece parte bene la serie di semifinale per le APU Women. Contro la triestina Janesic si scatena la concittadina Alice Gregori, la capitana, 23 punti e fondamentale nel supplementare di gara 1 contro Broni, 80-77 dopo il 64 pari dei regolamentari, gara 2 mercoledì nell'Oltrepò. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Baseball: dalla trasferta di Parma contro il Crocetta nel settimo e ottavo turno del campionato di Serie A, i New Black Panthers di Ronchi dei Legionari rientrano con una vittoria e una sconfitta. 3-2 a favore dei ronchesi nella prima partita e 5-4 per i padroni di casa nella seconda. Ronchi quarta in classifica, prossime gare in casa sabato 18 contro Padova. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar ed Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:27 30 secondi, fra poco di nuovo la linea Radio 1, prossima edizione del GR regionale alle 18:30. Grazie per averci seguito, ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.